Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono girl, cerco la mia Courtney Love. Oh my God, quanti soldi. Voglio una tipa che balla reggaeton. Brutto stronzo, Happy Birthday. È il mio compleanno tutti i giorni, ma signorita, perché non rispondi? Ti ho lasciato sei messaggi sull'iPhone. Di ora ai piedi, vestiti e scendi, sono già giù. Sportiva due passi, BMW, californiana la Sprite, californiana la Kush, la passo soltanto ai miei, ehi. Fumo gelato, c'è odore in tutto il mio vicinato. Tutti qua sanno come lo faccio, baby. Freddo al mio polso, c'è troppo ghiaccio, baby. Ehi. Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono girl, cerco la mia Courtney Love. Oh my God, quanti soldi. Voglio una tipa che balla reggaeton. Brutto stronzo, Happy Birthday. È il mio compleanno tutti i giorni, ma signorita, perché non rispondi? Ti ho lasciato sei messaggi sull'iPhone. Mi trovi a bordo campo con una figa a fianco, anche se non so manco che squadre stanno giocando. Lei mi chiama, mi dice se è quello che voglio. Io le rispondo, non so quando torno. Io e te siamo un casino come al casino. Oh, oh, oh. Sto sognando noi su New York. Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono girl, cerco la mia.